quando c'erano i cavalli non si arrivava mai. Veniva buio presto e presto era già tardi, la notte non finiva mai. Tu chi sei? Tu cosa vuoi? Quella bella mattina si mosse qualcosa, la loro vita cambiò. Fermo davanti alla vetrina, lei si innamorò. Ma adesso tu chi sei? Perché non parli mai? Cosa vuoi? Quella notte guardando le stelle, quella notte non finiva mai. Negli occhi mentre passavano due guerre, si tenevano la mano per non lasciarsi mai. Ma dimmi tu chi sei, con quella faccia bianca e quegli occhioni blu che non si chiudono mai. È più di un'ora che mi guardi tu. Sono il cielo dietro all'angolo, sono un viaggio che farà, sono un progetto, sono un calcolo, tutti gli occhi che ti innamorerai. La potrai sdraiarti sotto un albero, fare solo quello che ti va. Accenderti, spegnerti, accenderti, spegnerti, accenderti, spegnerti. Se fosse davvero un posto così bello, è chiaro che ci andrei. Partirei adesso, partirei scalzo, partirei mutando, anzi mi innamorerei. Ma non ho capito bene tu chi sei, faccia bianca e quegli occhioni blu che non si chiudono mai. E invece è bello chiuderli di notte senza sapere se ti sveglierà, o stando ad occhi aperti confondere la notte, andare in giro senza sapere dove vai. Accenderci, spegnerci, accenderci, spegnerci.